Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Dopo aver parlato di vacanze e di bagagli l'altro giorno, oggi torniamo su un tema spesso purtroppo presente nelle nostre conversazioni, è il tema delle bollette. Ben ritrovato Gianluca Codognato, ciao Gianluca. Ciao Mirko, un saluto agli ascoltatori. Allora, bollette, purtroppo ancora casi di bollette che vengono comunque emesse quando il titolare, ahimè, è passato, come si dice, a miglior vita. Qui però il danno è addirittura doppio, perché siccome una bolletta non era stata, appunto, una delle ultime credo non sia stata pagata, alla fine chi ha ereditato anche la linea elettrica si è trovato col taglio. Ho riassunto bene? Sì, guarda, hai risultato benissimo, anche perché è una situazione molto articolata, però che ci fa veramente mettere le mani nei capelli. E tra le altre cose, il socio che è vittima di questo, chiamiamolo disservizio, ma non sappiamo neanche noi come chiamarlo, disguido, eccetera, devo dire che è venuto a noi quasi col sorriso fra le labbra, perché anche lui non si rende conto di cosa sia successo. In realtà devo dire che questa persona, che è un pensionato, ha poco da sorridere, perché è fuori di casa, pensa Mirko, da circa un mese e mezzo, è costretto a vivere tra farsi ospitare da amici in montagna o dai parenti a Mestre, perché questo è un pensionato mestrino, perché non può più vivere a casa sua, perché semplicemente gli hanno tolto la luce, gli hanno tolto l'energia elettrica. Ma perché? Non è lui il moroso, cioè quello che non ha pagato la bolletta, oppure no? Ed è qua che la situazione si complica in maniera incredibile, non è assolutamente lui che non ha pagato una bolletta. Tra le altre cose, ovviamente questo con tutte le ricerche successive, si è scoperto che la corrente, l'ordine, diciamo, di togliere la corrente è arrivato da una società, Illumia, che non è neanche il fornitore di questo pensionato, perché questo pensionato si fornisce da Edison. Ma Illumia, invece, fino allo scorso febbraio, serviva la zia, l'anziana zia che vive in centro storico a Venezia, mentre il pensionato, forse non l'ho detto, vive a Mestre. Quindi è molto importante da capire queste due cose qua. Cosa succede? Che l'anziana zia fino a febbraio scorso aveva effettivamente un contratto con Illumia. La donna è deceduta ad aprile, le bollette fino a aprile sono state pagate dagli stessi parenti, insomma, sono state onorate. Poi bisogna dire che sono arrivate delle bollette successive, e anche qua noi non capiamo il perché siano state mandate queste bollette, ed è una di queste bollette che non è stata pagata. Noi risaliamo da questa morosità, almeno adesso stiamo cercando di indagare, per capire il comportamento di Illumia, perché da questa morosità di una donna che abita in centro storico a Venezia hanno tolto la luce al nipote che abita a Mestre. Sì, questa è veramente paradossale. Fa ridere fino a un certo punto, perché ripeto, purtroppo questa persona è addirittura fuori di casa per questo motivo, e il problema è a monte, cioè è al tempi della sottoscrizione del contratto tra l'anziana zia e Illumia, perché proprio in quel momento, per un disguido che stiamo cercando di capire, però non imputabile assolutamente ovviamente al nostro socio né all'anziana defunta, insomma, per tale disguido Illumia ha dato all'anziana lo stesso identico pod, che sappiamo che è il codice, diciamo, per la fornitura, sì, che aveva il nipote a Mestre. Ora chiariamo, il nipote è con un altro operatore, sì, però Illumia ha fornito lo stesso numero di pod all'anziana zia ancora a suo tempo. Penso la signora aveva fatto il contratto a metà 2015 e l'ha tenuto fino al 2016, rendendosi poi conto che Illumia era troppo cara, e avevano lo stesso pod, per cui a un certo punto, quando hanno visto questa morosità della zia, che tra parentesi è deceduta, hanno tolto la luce a una persona che abita in tutt'altra casa. Capisci Mirko che insomma ci troviamo ormai di fronte a dei paradossi incredibili, anche perché fino a un anno fa eravamo abituati a vedere la gente che si presentava da noi con la bolletta da 10.000 euro, con il conguaglio incredibile, e quello, vabbè, era solo una questione di andare a contestare il contatore. Qua ci troviamo di fronte a bollette fatte pagare a persone, anzi a contratti fatti stipulare a persone decedute, a bollette fatte pagare per morosità di altri, quindi a situazioni assurde. Siamo proprio in un mercato selvaggio. È molto complessa la situazione, quindi credo anche non facile da risolvere, perché intanto il signore è comunque anziano, per quanto spero in salute, 72 anni, non può stare a casa sua perché non ha la corrente. Quindi come state cercando di risolvere questo nodo? Allora, al povero pensionato che è costretto a vagabondare da luglio in altre realtà, è aspettato il compito di indagare fin dall'inizio, e indagando ha scoperto tantissime cose, tipo quella del pod, perché è lui che l'ha scoperta fondamentalmente, e ha scoperto di avere che il pod suo è identico al pod della zia defunta, e ha dovuto indagare anche per capire chi è che gli avesse tolto l'energia elettrica, e là ha dovuto indagare tramite Enel Distribuzioni, che si occupa ovviamente della distribuzione, e là ha scoperto che è stata Illumia. Ha dovuto chiamare Edison per sapere se Edison, che è il suo fornitore, potesse far qualcosa. Edison non può far niente, quindi insomma gran parte del lavoro iniziale è stato fatto dal pensionato, fino a che appunto egli stesso ha deciso di rivolgersi all'Adico per capire la situazione. Adico sostanzialmente è intervenuta, come interviene sempre, tramite una prima lettera, una prima diffida, in cui si scrive a Illumia tutta la situazione, la si intima a rifornire l'energia elettrica, che poi semplicemente a riallacciare praticamente la fornitura che poi viene data da Edison, e soprattutto noi chiediamo un congruo risarcimento, perché Mirko, questa persona dobbiamo pensare che è fortunata ad avere amici e parenti, però è da un mese, che anche più di un mese, che vive fuori dalla sua casa, fuori dalla sua abitazione. Quindi, spero poi non debba altri soldi a Edison, che è il suo fornitore, ma in teoria non consumando nulla non dovrebbe arrivare nulla, ma non escludiamo. Ma si sa che ci sono comunque sempre delle piccole spese, ovviamente, costi vivi, chiaramente saranno pochi soldi, quindi diciamo che lui non è neanche preoccupato di questo, lui vuole semplicemente tornarsene a casa, come vorrebbe qualsiasi pensionato che, tra parentesi, in salute vuole vivere la sua vita nella sua abitazione, ecco, perché sarà bello anche andare in montagna dagli amici o rimanere a Mestre dai figli, ma comunque ci si sente sempre magari un po' di peso, si sente sempre che manca la propria indipendenza. Poi, tra l'altro, in una storia dai contorni kafkiani come questa, chiaramente, in cui lui non ha nessuna colpa, sente ancora più la voglia di risolvere il problema. Noi andiamo a chiedere comunque un risarcimento ampio, perché oggettivamente hanno fatto vivere una situazione di totale disagio a una persona che non ha nessuna colpa. Pensavamo di averle sentite tutte sulle bollette e sui contatori elettrici, ma abbiamo scoperto che non è così con questa vicenda. Allora, con l'Adico, Associazione Difesa Consumatori.it, ci ritroviamo la settimana prossima con altre due vicende, speriamo più a lieto fine. Grazie Gianluca Codognato, buon lavoro. Grazie a te Mirko, altrettanto. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.